cristallina, diademi di paraffina, diamanti e delitti, tu impara, pensa chi arriva prima. Angoli ciechi, triangoli azzechi, in piedi e cammina, vedi un'illusione, una fusione del dopo col prima. Colla liquida, poi nala, copia e incolla, bolla indiana, tacco collant, verba volant, salamoia e marijuana. Molla l'osso, questa musica è un igloo e di più non posso. Una tribù ti viene addosso, chiavi in sol ma in carovana. Cara amica, io ti scrivo in solitaria, voce univoca che limita poi amplifica i castelli fatti in aria. Ti amo troppo per sconfiggerti e non posso farti schiava. Notte scatta il cielo rosso su Bombay che inghiotte lava, golfo persico e persiana, karma e tessere di trama. In fondo un essere può perdere la vista in istantanea, Instagram istanti in aria, una mista amanti e malaria. Io in stamina vitamina, ho la crystal per la tua fama. Quindi un quadro flash, cosa non quadra? Flash, qui non quadra. Flash, cosa non quadra? Flash. Se qui non quadra, inietto rap e sputi bava, danza storta e simultanea, terra rossa, voce fioca ma marziana. Quanto costa una domanda che ha risposte in file indiane? Chi non torna e chi si è perso sulla strada verso casa, chiazza sterile di pece sopra pelle razza ariana. Guerra nostra, guerra urbana, epidermide in porcellana, grappoli di uva sultana, lampade pioggia fontana, sono in fasci ultravioletti, satelliti a orbita arcana, caldo Havana, sole in borsa, rotto caldo room in fiala, settimana tra proiettili rincorsi come Oriana, passi falsi, fil di lana, matasse lungo percorsi, giorni fuori da ogni dove, piove in extra temporanea, fotogramma per secondo, click Moana, come sfondo il suo ritorno dopo anni, tra maschere di mascara, vasche inquattrate a fondo, ritratti e progetti in aria, dopo aver vissuto morto ad occhi aperti per un giorno. Qui non quadra, flash, cosa non quadra? Flash, qui non quadra. Flash, cosa non quadra? Flash, qui non quadra. Flash, cosa non quadra? Flash, io l'intro, no?